così giù veggio e niente affiguro. Altra risposta disse: non ti rendo se non lo far, che la dimanda onesta si dee seguir con l'opera tacendo. Noi discendemmo il ponte dalla testa, ove s'aggiunge con l'ottava ripa, e poi mi fu la bolgia manifesta. E vidivi entro terribile stipa di serpenti e di sì diversa mena che la memoria al sangue ancor mi scipa. Più non si vanti Libia con sua rena chersi che d'idri, iaculi e faree producer, cencre con anfesibena. Né tante pestilenzie, né siree, mostrò giammai con tutta l'Etiopia, né con ciò che di sopra al Mar Rosso è. Tra questa cruda e tristissima copia, correvan genti nude e spaventate, senza sperar pertugio o elitropia. Con serpi le man dietro avean legate, quelle ficcavan per li ren la coda e il capo, ed eran dinanzi aggroppate. Ed ecco, ad un ch'era da nostra proda, s'avventò un serpente che il trafisse là dove il collo alle spalle s'annoda. Né O si tosto mai, né I si scrisse, com'ei s'accese d'arse, e cener tutto convenne che cascando divenisse. E poi che fu a terra sì distrutto, la cener si raccolse, e per se stessa in quel medesmo ritornò di butto. Così per i gran savi si confessa che la fenice muore e poi rinasce, quando al cinquecentesimo anno appressa. Erba nebbiada in sua vita non pasce, ma sol d'incenso, lagrime e d'amomo, e nardo e mirra son l'ultime fasce. E qual è quel che cade e non sa como, per forza di demon ch'a terra il tira, o d'altra oppilazion che lega l'uomo? Quando si leva, che intorno si mira, tutto smarrito dalla grande angoscia che gli ha sofferta, e guardando sospira. Tal era il peccator levato poscia. O giustizia di Dio, quanto è severa, che cotai colpi per vendetta croscia! Lo duca il dimandò poi chi egli era, perché gli rispose: i piovvi di Toscana poco tempo è in questa gola fera. Vita bestial mi piacque e non umana, sì come a mul ch'io fui. Son vanni fucci, bestia, e Pistoia mi fu degna tana. Ed io al duca: dilli che non mucci. E dimanda qual colpa qua giù il pinse, ch'io il vidi uom già di sangue e di corrucci. E il peccator, che intese, non s'infinse, ma drizzò ver me l'animo e il volto, e di trista vergogna si dipinse. Poi disse: più mi duol che tu m'hai colto nella miseria dove tu mi vedi, che quando io fui dall'altra vita tolto. Io non posso negar quel che tu chiedi. In giù son messo tanto, perché io fui ladro alla sagrestia de belli arredi, e falsamente già fu a posto altrui. Ma perché di tal vista tu non godi, se mai sarai di fuor dei luoghi bui, apri gli orecchi al mio annunzio ed odi. Pistoia in pria di neri si dimagra, poi Firenze rinnova genti e modi. Tragge Marte vapor di Val di Magra, che è di torbidi nuvoli involuto, e con tempesta impetuosa ed agra sovracampo Picen fia combattuto, ond'ei repente spezzerà la nebbia, sì ch'ogni bianco ne sarà feruto, e detto l'ho perché doler tendebbia. Fine del canto ventiquattresimo.